Innanzitutto hanno confermato un aspetto importante, che quando si compie un'indagine che ha a che fare con la percezione che l'opinione pubblica ha di alcuni fenomeni, questa percezione è fortemente influenzata dalla modalità con la quale questi fenomeni vengono descritti dagli organi di informazione, dai media. In particolare le televisioni generaliste, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7 e naturalmente in misura un po' minore, però comunque non trascurabile anche dai principali quotidiani nazionali. Quindi c'è una correlazione diretta tra come l'opinione pubblica descrive e percepisce un fenomeno e come questo fenomeno viene trattato da questi organi di informazione. Ovvero più ne parlano, più l'opinione pubblica segue la questione, meno ne parlano, meno l'opinione pubblica segue la questione. Per quel che riguarda in particolare il fenomeno migratorio, le due indagini che abbiamo condotto con l'Osservatorio di Pavia e con Ipsos ci confermano che gli italiani hanno una percezione del fenomeno migratorio che è fortemente influenzata appunto da come gli organi di informazione ne trattano. Ovvero, quando chiediamo agli italiani se per loro la questione migratoria è un problema di carattere nazionale, ci rispondono in una percentuale pari a circa un quarto del campione, quindi per un 25% del campione, che il fenomeno migratorio è un importante problema nazionale. Se però la stessa domanda la poniamo agli italiani in un modo diverso, chiediamo loro se a livello locale il fenomeno migratorio è altrettanto un problema significativo, ecco che questo numero scende drasticamente, solamente per un italiano su 10 il fenomeno migratorio è una questione problematica a livello locale. Questo ci dice che appunto gli italiani sono condizionati nel giudizio nazionale da come il fenomeno è trattato dagli organi di informazione, che lo trattano in modo prevalentemente allarmistico, cronachistico, inseguendo la politica con i suoi slogan e anche politica quando tratta del fenomeno per introdurre nuove regolamentazioni piuttosto che rivedere quelle esistenti. Se invece gli italiani vengono interpellati sul fenomeno nella sua dimensione locale, ecco che lo leggono alla luce della loro esperienza personale. Il migrante, l'immigrato, non è più un numero, non è più una categoria, ma diventa una persona in carne ed ossa che abita nella casa accanto, che si incontra al mercato, che si incontra per strada, che ti porta i pacchi a casa quando fai un ordine online. E quindi questa percezione fa drasticamente ridurre questo giudizio di criticità sul fenomeno migratorio quando lo affrontiamo in un'ottica più locale. Invece, sul versante dei media è interessante vedere, ad esempio, come il migrante, come dire, non venga mai o poco, insomma, No, interpellato in prima persona, ma, come dire, sempre passivo nel racconto. è una conseguenza di quello che abbiamo appena detto. I media trattano del fenomeno migratorio in termini generici, si parla di migranti, si parla di flussi, si parla di problema immigrazione, ma non c'è mai una descrizione puntuale e precisa di storie personali. E questo cosa comporta? Che nel 70% delle notizie il migrante, l'immigrato è annegato all'interno della categoria, che appunto viene trattata dagli organi di informazione in modo indistinto. Solamente in un 10% delle notizie il migrante è presentato con una sua voce, con una sua opinione, con un ruolo da protagonista nei fenomeni che lo riguardano. E questo si riflette poi anche sul giudizio che gli italiani danno di questa questione. Senza ovviamente fare una classifica, ma ci sono testate media più virtuosi rispetto ad altri? Possiamo dirlo con una certa buona approssimazione. Le reti AI ne escono meglio perché sono tra quelle che trattano un po' di più delle altre del fenomeno e lo descrivono nel modo più corretto, quindi non soffermandosi alla dimensione cronachistica, emergenziale, di allarme, ma approfondiscono il fenomeno, più spesso delle altre danno voce ai migranti, ascoltano la loro opinione, raccontano le loro storie e fanno della persona migrante un protagonista di un racconto. Le reti che invece sono più in difficoltà in questo tipo di approccio sono le reti private del gruppo Mediaset. Visto la correlazione che hai citato prima, cioè ovviamente la percezione dei cittadini dipende molto anche da come ne parlano i media, che tipo di lavoro si può svolgere sui media? Cos'è, una questione di preparazione dei giornalisti? Che cosa? Sicuramente c'è un problema di preparazione dei giornalisti e c'è un problema di raccontare di più storie di successo, di cambiare la narrazione, di non inseguire la quotidianità, ma d'altro canto bisogna anche capire che per per affrontare questo problema ci vuole anche un impegno diverso della politica. Diciamo che la politica insegue i media e i media inseguono la politica, quindi la responsabilità maggiore forse è proprio della politica. Fin tanto che la politica tratta questi argomenti in un modo allarmistico, è chiaro che i media sono portati, inseguendo la notizia, a dare sempre una lettura attraverso slogan, attraverso semplificazioni, attraverso cortocircuiti di un fenomeno complesso come quello migratorio. Se la politica trattasse del fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale di lungo periodo che va affrontato con leggi che guardino al futuro e non all'immediato, e ritornasse a parlare una volta tanto non di decreti sicurezza ma di decreti integrazione, non di invasione ma di sviluppo che va cercato tra le due sponde del Mediterraneo, ecco che forse anche gli stessi media, gli stessi giornalisti avrebbero la possibilità di descrivere il fenomeno migratorio in un modo molto diverso.